Europa 24. In primo piano il Consiglio europeo sui migranti, sul tavolo l'accordo UE-Turchia, l'abbiamo sentito anche poco fa in effetto giorno. Dal vertice ci aspettiamo la capacità dell'Europa di realizzare le cose decise, dice il ministro dell'interno Angelino Alfano arrivato a Bruxelles. Il vero dramma dell'Europa di oggi non è quello di non decidere, ma di non realizzare quello che è già stato deciso, ed un segnale forte per realizzare i rimpatri senza i quali i migranti irregolari sono incentivati a venire. Queste le parole di Alfano. I am cautiously optimistic, but frankly speaking more cautious than optimistic. Cautamente ottimista, ma francamente più cauto che ottimista. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk non si sbilancia sulla possibilità di arrivare ad un accordo con la Turchia, un'intesa difficile sulla quale 28 paesi lavoreranno a partire dalle prossime ore e ad oltranza fino ad arrivare ad un testo da presentare domani al premier turco Davutoğlu. Sul piatto la questione del controllo dei flussi di migranti. La Turchia nello scorso vertice aveva chiesto come contropartita 3 miliardi in più rispetto a quelli inizialmente promessi dall'Europa, la liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi, l'accelerazione dei negoziati per l'adesione all'Europa. Bruxelles sembra disposta a concedere molto meno. Il presidente della Commissione europea Juncker l'ha già messo in chiaro. Non è in questione l'adesione della Turchia, che non è matura per entrare in Europa e non lo sarà nemmeno nei prossimi 10 anni, ha detto, dichiarandosi però anch'egli cautamente ottimista sull'accordo. Ci sarà comunque da lavorare. Diverse le posizioni sulla questione migranti. Cipro è disposta a porre un veto sulle procedure di ingresso di Ankara. L'Ungheria e gli stati balcanici contrari alla ripartizione tra i 28 dei profughi che saranno prelevati dalla Turchia, diversi governi, tra cui quello italiano, perplessi sulla scelta di chiudere un occhio sui diritti umani e concedere altri soldi alla Turchia per ospitare siriani. Insomma, si prevede una lunga notte di trattative. La prima sessione di lavoro, infatti, quella delle 16, è dedicata alla situazione economica. Solo da questa sera si comincerà ad affrontare il nodo migranti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Intanto la Corte europea di Giustizia europea proprio questa mattina ha esaminato con urgenza il caso di un migrante pakistano richiedente asilo fermato in Repubblica Ceca e rimandato in Ungheria, paese di primo ingresso nell'Unione Europea, che a sua volta ha deciso di rimandarlo in Serbia, da cui era arrivato. Ebbene, stamattina la Corte di Giustizia europea ha stabilito che le regole europee consentono agli Stati membri di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo considerato sicuro. E questa mattina le parole del ministro dell'economia Piercarlo Padoan: fra gli elementi di rischio geopolitici fuori e dentro l'Unione Europea c'è anche l'ipotesi Brexit, ha detto Padoan, il quale ha ricordato come anche il G20 abbia evidenziato la pericolosità di un'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Ed ora parliamo di inquinamento. Per il secondo anno consecutivo il mondo frena sulle emissioni di CO2 e se l'anno scorso gli scettici potevano avere perplessità, quest'anno il dato conferma un trend incoraggiante. Guardando al 2015, le emissioni di CO2 sono rimaste ferme ai dati del 2013. Una cosa inaspettata, visto che è dal 95 che le emissioni anno dopo anno crescevano. A fare da traino è sicuramente l'Unione Europea. Secondo un dato di Euroobserver, che effettua il monitoraggio dei trend delle energie verdi nell'Unione Europea, il settore è infatti in crescita, fattura 143,6 miliardi e dà lavoro a 1 milione di persone. Un circolo virtuoso che ha permesso dunque il taglio di uso di combustibili fossili, in primis carbone e gas. A ridurre di più, sia in termini assoluti che di emissione di gas serra, sono state Germania, Italia e Spagna. Questo quanto rileva l'ultimo rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, che registra l'aumento del consumo di energia verde nell'Unione Europea dal 14,3% del 2012 al 15% del 2013, fino alle ultime stime che per il 2014 parlano del 15,2%. Il trend è in crescita, ma potrebbe andare molto meglio. Insomma, non bisogna riposare sugli allori, dicono dall'Agenzia Europea per l'Ambiente. Bisogna fare ancora tantissimo. Un bel tragitto per arrivare al taglio di CO2 al 2050 fissato tra l'80 e il 95% rispetto al 1990. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.